che a me va in galera, hai capito che va in galera? Ah, e rischia la galera, non hai capito ancora, auto. Continua a parlare con lui, continua, io ti dico solamente, continua. Poi non piange quando ti sparisce Valentina per auto. Io te l'ho detto, poi fai come cavolo ti pare. Sparisce Barchino, non è colpa mia, eh? Io ho già avvisato su addirittura, peggio per te, io ti ho avvertito mucchio di volte, non parlare con Graziano, non parlare con Graziano, tu dici, ma io ci parlo per tenergli compagnia, vabbè, parlaci, tuo padre, vedi, gli ho telefonato, gli ho detto di tutto, dice Barchino, non te l'ho tolto, va bene, vuol dire che domani è messo il giorno, parlo con tuo padre, vedi? Io non è che ti faccio squillare il telefono, capito?